30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Giovedì 19 aprile il presidente degli Stati Uniti Barack Obama si è seduto nello stesso autobus dove nel 1955 Rosa Parks sfidò la legge segregazionista dell'Alabama, rifiutandosi di cedere il suo posto ad un bianco. Era l'anno 1955 appunto, e quel momento, quella fotografia è diventato uno dei momenti storici del movimento per la lotta dei diritti civili negli Stati Uniti. Obama era di passaggio a Dearborn, nel Michigan, e il primo presidente ha scelto dunque di immortalarsi all'interno di un'icona, quell'immagine del gran rifiuto che in realtà venne compiuto nella città di Montgomery, nell'Alabama del Sud. Cari amici, cari ascoltatori di 30 minuti in cronaca, dunque benvenuti a questo nuovo appuntamento. Questa sera andiamo in onda da Perugia, dove si avvia a conclusione il 6° Festival Internazionale del Giornalismo. Come forse sentirete anche dal sottofondo, non siamo nel nostro studio, e come avete sentito nel nostro lancio, questa sera partiamo da un'immagine, una fotografia, uno scatto che ci porta nel Midwest americano e che ci ricorda come la vittoria di Barack Obama alle presidenziali del 2008 abbia prodotto una svolta epocale nella storia americana degli Stati Uniti. A Perugia, tra i molti colleghi italiani e stranieri presenti, c'è anche Isabel Wilkerson, prima donna afroamericana ad avere conquistato il premio Pulitzer, che come sapete rappresenta forse il massimo riconoscimento della nostra professione. Allora, con lei abbiamo parlato di Obama, dei neri americani oggi, di un suo lavoro, un libro ora pubblicato in italiano, che racconta proprio la storia della grande migrazione di oltre 6 milioni di afroamericani, una storia che ha cambiato il volto delle città americane, quella migrazione che anche attraverso Chicago ha portato Barack e Michelle Obama alla Casa Bianca, a meno di mezzo secolo dalla legge fondamentale per i diritti civili del 1964. Allora, signora Wilkerson, partiamo dalla fotografia. Barack Obama nel museo, seduto al posto che fu voluto fortissimamente da Rosa Parks. Yes, that photograph is very symbolic and very meaningful even to this day. Quella fotografia ha un grande valore simbolico e ancora oggi ha un preciso significato politico. Ci dice fino a che punto le cose siano cambiate negli Stati Uniti d'America. Ci ricorda che negli anni 50 nemmeno Barack Obama avrebbe potuto scegliere quel posto riservato ai bianchi. Racconta come persone coraggiose come Rosa Parks abbiano cambiato l'America e come tutto sia accaduto in un lasso di tempo piuttosto breve, se si considera che per molte persone che oggi sono anziane parliamo di una vicenda che si svolge nell'arco di una sola vita. Una ragione che mi ha spinto a scrivere Al calore di soli lontani è proprio la vicenda della cosiddetta grande migrazione di 6 milioni di neri americani dagli stati del sud verso quelli del nord, dell'est e dell'ovest. È una storia ancora viva per molti afroamericani. C'è una generazione intera che ancora può dire di aver vissuto quell'umiliazione che la fotografia di Rosa Parks, di cui abbiamo parlato, rappresenta. Insomma, quello che è accaduto negli ultimi 50 anni di storia resta pur sempre una parte abbastanza circoscritta di un sistema che ha dominato 400 anni di storia americana. Direi dunque che ancora oggi la società americana contemporanea sta prendendo le misure con un modello di equità sociale radicalmente diverso da quanto è stato praticato per gran parte della sua storia. Isabel Wilkerson, quando nel 94 ha vinto il premio Pulitzer per i suoi articoli sulla società americana, articoli scritti sulle pagine di Chicago del New York Times, si immaginava che nell'arco temporale della sua vita lo studio ovale sarebbe stato occupato da un presidente afroamericano? Io credo che nel 1994 negli Stati Uniti nessuno si poteva immaginare di assistere a una cosa del genere. Credo che persino oggi siano in molti a non credere ai propri occhi e a doversi ricordare ogni tanto che sì, è accaduto, che sì, è vero. Credo anche che questo ragionamento non valga solo per gli americani. La sorpresa del mondo intero è stata grande e credo anche di poter dire che è stata una sorpresa accolta per lo più molto positivamente. Negli Negli stessi giorni in cui si faceva ritrarre al posto di Rosa Parks, il presidente Obama è stato criticato dagli ambienti progressisti per non aver firmato una legge che proibirebbe qualsiasi discriminazione nei confronti di omosessuali e lesbiche da parte delle società che lavorano per conto della pubblica amministrazione nazionale. A pochi mesi dal voto presidenziale si è detto che il presidente non abbia voluto rischiare un'alzata di scudi da parte di conservatori e moderati. Non me la sento di giudicare quella che è stata una scelta personale del presidente. Di certo posso dire che nel mio paese, come d'altra parte accade in molti altri paesi del mondo, c'è ancora molto da fare sul fronte della tutela dei diritti umani e delle minoranze. Quanto è accaduto per la comunità afroamericana negli Stati Uniti è dunque una parte di un quadro più ampio di affermazione dei diritti e di un processo ancora in piena evoluzione. It isn't fully there yet on a number of issues. Ida May, una dei tre protagonisti del suo libro, si sposa nell'ottobre del 29, si sposa giovanissima nel profondo sud, si trasferisce con il marito nella piantagione di cotone dove quest'ultimo lavora, poi racconta che poche settimane dopo il suo matrimonio una cosa chiamata borsa crolla e spiega come quasi subito le condizioni di vita sue e dell'intera comunità si facciano rapidamente molto più pesanti. 80 anni più tardi, in che modo la nuova crisi, quella che viviamo in questi anni, colpisce la comunità afroamericana degli Stati Uniti? Yes, the African American community was more disproportionately affected by the crisis. È vero, l'impatto della crisi economica sulla comunità afroamericana è stato altissimo negli anni della gioventù di Damae e sicuramente quella crisi ha innescato il processo della grande migrazione dei neri verso le città. In un certo senso in questi anni la storia si è ripetuta, negli stati del sud gli afroamericani e le altre minoranze sono più esposti al rischio di perdere il proprio lavoro e la propria casa. Anche questo a mio avviso è la conseguenza del fatto che per quanto il processo di integrazione sociale abbia fatto passi da gigante, resta comunque ancora segnato dalle pratiche di discriminazione sociale che per anni hanno dominato il nostro paese. Negli anni 30, scrive nel suo libro, le condizioni degli afroamericani degli stati del sud sono molto simili a quelli degli ebrei in Europa. Yes, because African Americans are the ones who are living in the circumstances that we are describing here. È così. Già alla fine dell'Ottocento, dopo aver sconfitto militarmente il Sud nella guerra civile ed aver imposto la fine della schiavitù formale, il Nord entra in una fase storica in cui ci si disinteressa degli sviluppi interni degli stati meridionali. È una fase in cui gli stati del sud dominati dalle elite bianche, dalla Florida al Mississippi, costruiscono un sistema giuridico di segregazione formale che riporta indietro di decenni l'orologio della storia. In molti casi ciò che è stato vissuto dai nonni e dai bisnonni degli afroamericani di oggi non è stato raccontato in maniera completa. Sono episodi dolorosi, umilianti, che vengono messi ai margini della storia familiare. The people who lived it did not even share with their own children. C'erano sale d'attesa per i bianchi e sale d'attesa per i neri. In qualunque luogo si dovesse aspettare qualcosa, dai capolinea degli autobus agli ambulatori. Ogni esercizio pubblico che volesse aprire alle persone di colore doveva costruire e mantenere, spendendo non pochi soldi, 4 toilette per uomini bianchi, per donne bianche, per uomini di colore e donne di colore. Nel 1958, a Jackson, aprì una nuova stazione degli autobus che duplicava tutto, compreso le sale da cocktail, per scongiurare che le razze si pestassero i piedi per un martini, come scrisse il Wall Street Journal. 30 minuti in cronaca. Non appena i primi emigranti scesero dai treni, gli studiosi della grande migrazione cominciarono a discutere sulle ragioni che avevano convinto milioni di abitanti delle campagne e dei borghi del sud a tagliare i ponti con tutto ciò che avevano, ad abbandonare la terra in cui erano sepolti i loro padri e a tuffarsi verso l'ignoto. I proprietari terrieri, quelli del sud ovviamente, davano la colpa ai reclutatori nordisti, pagati un dollaro per ogni lavoratore nero che procuravano alle fonderie e ai macelli del nord. Ma questo vale soltanto per i primissimi che erano partiti, di solito giovani braccianti che non avevano nulla da perdere. Altri sostenevano che a sedurre i lavoratori fosse soprattutto il Chicago Defender, ma la seduzione avveniva soltanto se c'era già un po' di passione da scatenare. Eccoci qua dunque, ancora con Isabel Wilkerson, premio Pulitzer, statunitense, afroamericana, autrice di Al calore di soli lontani, il racconto epico della grande migrazione afroamericana, pubblicato in italiano ora per i tipi del Saggiatore. Non si racconta ciò di cui in fondo dunque ci si vergogna, ciò che ci ha umiliati magari collettivamente. Senz'altro, sono storie dolorose che proprio attraverso la grande migrazione verso città lontane dal profondo sud, milioni di americani hanno deciso di lasciarsi per sempre alle spalle. Le privazioni, le umiliazioni, il vero e proprio terrore in un mondo in cui il linciaggio è stata una pratica comune, l'hanno fatto in tanti e il risultato è stato anche un fenomeno di rimozione collettiva in una fase storica. Sono partiti e non si sono più guardati indietro. Chicago, la città da cui proviene, la città di Barack Obama, la possiamo definire la nuova capitale dei neri d'America? Well, Chicago is one of the many sons that the people as part of this migration saw. Beh, senz'altro Chicago è uno dei molti soli verso i quali gli afroamericani si sono rivolti durante la loro grande migrazione all'interno del paese. Non è stato l'unico: New York, Philadelphia, Boston, Washington, Cleveland, Detroit, Minneapolis e naturalmente Los Angeles e San Francisco. Ci sono stati tre grandi flussi che li portavano lontani dal sud, verso Chicago, verso New York e verso Los Angeles, proprio come raccontavano i tre protagonisti del mio libro. I neri americani, a partire dagli anni 20 del Novecento, sono andati ovunque ci fossero le condizioni per sfuggire alla servitù, ovunque ci fossero le condizioni, anche solo parziali, per essere finalmente liberi. For Barack Obama, because he was her representative in the state legislature. The sweet pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. A proposito, chi era Jim Crow? Meglio, cos'era il Jim Crow di cui parla spesso nel suo libro? Well, Jim Crow is the term used for the caste system. Jim Crow è il nome usato per indicare il sistema delle caste, che è stato ricostruito a partire dagli anni 80 del 1800. È il sistema che ha edificato per mezzo secolo le regole della nuova segregazione razziale negli Stati Uniti, quello che ha diviso i posti sugli autobus, gli ingressi nei bar, nelle banche, quel sistema contro il quale si sono ribellati i leader afroamericani più famosi, da Malcolm X a Martin Luther King, e che soltanto il movimento dei diritti civili, che si è affermato a metà degli anni 60, è riuscito a smantellare. Which were the lifeblood of the South. Una pagina chiusa, dunque, quella della discriminazione nei confronti degli afroamericani? No, it is not over and it's not past at all. In fact, if you're in the South, many people still call it the war between the states. They make constant reference to it. No, senz'altro no. Non è chiusa e non è finita, nel senso che si tratta di un processo in costante sviluppo, che nemmeno l'elezione di Barack Obama ha in qualche modo chiuso. Nel sud degli Stati Uniti le citazioni alla guerra civile fanno ancora parte del lessico delle comunità. Le distanze tra i diversi gruppi restano forti. L'integrazione e la mescolanza delle persone e delle comunità continua ad essere un fattore assolutamente marginale del contesto sociale. Continua poi il fenomeno della rimozione di una fase storica segnata da ingiustizia e violenza, che per ragioni diverse diverse e magari opposte, si preferisce dimenticare o quantomeno mettere da parte. Ogni 4 giorni un nero veniva linciato nel sud degli Stati Uniti per violazioni vere o presunte del sistema di caste che era stato messo in piedi. È una storia presente nelle famiglie, tra le persone, una storia viva, ma almeno in apparenza una storia che ancora viene rimossa. D'altra parte bisogna dire che per quanto le cose possano cambiare, e nella storia americana dell'ultimo secolo le cose sono cambiate in maniera davvero drammatica e radicale, 4 anni di presidenza Obama non possono certo cambiare 400 anni di un sistema di caste che si è radicato profondamente nella società americana e con cui, almeno in parte, continuiamo a fare conti. It's still a work in progress. Grazie a Isabel Wilkerson, al calore di Soli lontani, edito dal Saggiatore, un grande affresco della storia americana, di una parte della storia americana che l'affermazione di Obama in qualche modo contribuisce paradossalmente a mettere in ombra. Bene, cari ascoltatori, con questo abbiamo concluso il nostro breve viaggio in una grande storia, quello appunto che viene descritto come il racconto epico della grande migrazione. 6 milioni di americani in un paese che oggi ci appare profondamente trasformato. Siamo partiti da un'immagine, uno scatto fotografico, che è quello di Barack Obama seduto al posto che fu di Rosa Parks e che fu nel 1955 uno dei momenti scatenanti della grande ondata di lotte degli afroamericani per i diritti civili, parità che avrebbero conquistato formalmente soltanto nel 1964. Allora, grazie a Isabel Wilkerson per essere stata con noi, grazie a tutti voi per averci ascoltato, a Fabio Cantadori in regia. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca, come sempre, per sabato prossimo alle 19:30 circa. Allora, dal Festival Internazionale del Giornalismo, 12ª edizione in fase conclusiva qui a Perugia, un saluto da Gigi Donelli.